Rec, V-Stream e via. Buonasera, bentornate e bentornati su Radio Wombat. State ascoltando finalmente, finalmente si può dire, In Punta di Pedali nella sua versione estesa. Ebbene sì, si può dire finalmente, perché la settimana scorsa è stato veramente una clamorosa buca. Infiniti problemi tecnici ci hanno impedito di andare in onda, ma noi non demordiamo e siamo sempre qua. Questo è Briccobaldo che vi parla dai microfoni della Tana del Wombat. Accanto a me ho l'onore di presentarvi Benever, buonasera. Benever. Sì, sì, oggi Benever. La volta scorsa vabbè, è successa una cosa veramente, no, veramente non ve lo raccontiamo, però è successo. Di cosa si tratta? Che cos'è In Punta di Pedali? Dici un po', Benever. Beh, e allora, In Punta di Pedali è il mondo visto dal punto di vista di un ciclista urbano, di un ciclista quotidiano di tutti i giorni. Quindi non si parla soltanto di biciclette, ma di tutto quello che pedalando si guarda, si vede attorno a noi, come vediamo il mondo attraverso le due ruote. Esattamente, non ci fermeremo solamente prettamente alle due ruote, bensì attraverso le due ruote, delle due ruote cercheremo di esplorare il mondo che ci circonda e di portare a voi e a tutti gli ascoltatori uno spunto in più per affrontare tutti i problemi con un punto di vista nuovo. Quindi avete già visto, abbiamo pubblicato sul sito Wombat una intervista, appunto partendo dalle due ruote siamo arrivati in Israele, e quindi quello è un po', diciamo, l'esempio che potete prendere per capire ciò che abbiamo intenzione di fare, perché noi siamo sì ciclisti, ma attraverso la bicicletta ci muoviamo per il mondo e sempre pronti a scoprire cose nuove. È una rubrica che andrà in onda in diretta una volta al mese, il martedì dalle 18 fino circa alle 19:30. Poi naturalmente siamo in ritardo noi, siamo partiti anche oggi con un quarto d'ora di ritardo, quindi... ce la prendiamo comoda. Sì, vabbè, è il quarto d'ora accademico che, diciamo, il Wombat è abituato ad avere. È una tecnica Wombat. È una tecnica Wombat, si crea suspense, cerchiamo non di farsi trovare all'appuntamento dal predatore. Esattamente. E, dicevamo, andrà in onda il martedì una volta al mese in diretta, e poi vi sarà una replica dopo due settimane, quindi troverete, diciamo, alternate una diretta, poi un martedì libero e poi un martedì la replica, e così via. Poi magari un giorno, chissà, se diventeremo bravi, se avremo voglia, potremo anche fare più puntate, proprio aumentare la frequenza della nostra presenza a questi microfoni con questa trasmissione. Caro Benever, dimmi. Te sei venuto in bicicletta, vero? Ovviamente, in bicicletta. Assolutamente. No, con una giornata come questa non ci sono scuse, tra l'altro. Vero, ho rischiato l'incidente con un altro ciclista. Sì. Questo è un ciclista abbastanza imbranato. Sì, imbranato? Ma, sì. Ma te sei uno di quelli che rispetta la viabilità? No. Che cos'è la viabilità? No. Mi sfugge, io utilizzo la bici per non dover rispettare la viabilità. Per non essere rintracciabile. Esatto. È questa. Più o meno anch'io, questa è la verità. No, questo simpatico ciclista imbranato, venendomi di fronte, ha tagliato alla sua sinistra, quindi mi ha tagliato la strada riuscendo a venirmi addosso quando poteva benissimo andare a destra. Vedi, abbastanza io... imbranato. Vabbè, quelli imbranati ci sono, però disciplinati. Io... calcolo sempre che all'incirca ogni volta che vengo in centro 5-6 infrazioni gravi le faccio, eh. Ah, ma perché ci sono infrazioni gravi? Dice, così dice. Io poi no. Voi a casa non le fate, fate i bravi, mi raccomando. Però la bicicletta è anarchica, no, quindi anarchica. La mia è anarchica, forse la tua è inconsapevole se mi rispondi così. No, niente, a parte gli scherzi, cerchiamo di usare e di invogliare a usare la bici tutti i giorni come, appunto, come mezzo quotidiano di trasporto, quindi non pensiamo alla bicicletta soltanto come qualcosa di sportivo o di giocattolo da usare la domenica. Sì, sì, è un mezzo furbo, io ancora prima che ecologico e tutte quelle faccende lì dico sempre che è furbo. Signori, voi potrete muovervi liberamente, parcheggiarla dove cazzo vi pare, essere veloci, infilarvi nel traffico, gusciare fuori e andare verso lidi meravigliosi e con una forma fisica fantastica. Quindi tutto questo ti mette di buon umore. Quindi... Le endorfine. Vero, magia. Vero. Senti, caro, io ti lascio un attimo la parola perché devo cambiare. Sì, vedo microfono. Un cambio di microfono al volo, quindi mi prendo la trasmissione tutta per me. Vai. E la devio su un argomento automobili. No, scherzo. A parte lo scherzo, l'intervista che abbiamo già mandato è un esempio di come attraverso la bicicletta si può parlare di qualcosa di più serio e impegnato. E purtroppo la nostra tempistica, involontariamente, a nostro malgrado, ha avuto una brutta coincidenza, perché abbiamo visto venerdì c'è stato questo ennesimo massacro a Gaza, che ormai non si sa più quanti massacri bisogna verissimo, a Gaza. Verissimo. E quanto cosa dovrà mai fare il Giro d'Italia per coprire anche questo ennesimo massacro, perché come abbiamo visto dall'intervista questo Giro d'Italia quest'anno utilizza, appunto, tragicamente utilizza la bicicletta per normalizzare un posto, un luogo e una politica che normali non sono. È vero, questa è purtroppo proprio la verità, perché scoprirete, potrete anche approfondire il fatto che il Giro d'Italia per la prima volta nella sua storia parte da un paese che non sta dentro i confini dell'Europa e dice, vabbè, che figo, uno dice, bello, finalmente va fuori. Sì, se non fosse che parte proprio da Israele. La prima tappa si svolgerà a Gerusalemme, le altre, la seconda e la terza, nel territorio israeliano, territorio che sappiamo bene quali difficoltà affronta, soprattutto per quanto riguarda la popolazione palestinese da oramai, si può dire, decenni veramente costretta a una condizione di vita inumana, con un controllo totale su tutte le risorse, con un controllo sui movimenti, sulle risorse idriche, energetiche, veramente sono in una situazione estrema. Voi che dite, ma il Giro d'Italia non può altro che fargli bene? Sì, se non fosse che, appunto, Israele utilizza questa grande vetrina della Corsa Rosa per rifarsi un'immagine, per rifarsi un lifting, per fare una campagna mediatica che mira soprattutto a promuovere il territorio israeliano come ai tutti, e quindi a discapito ancora una volta della popolazione palestinese. Comunque, che si fa? Dai, lasciamo la voce all'intervista. Sì, senza mandiamo anche un pezzo prima, un pezzettino, dai, dell'intervista, così vai. Ah, vuoi mandare un pezzo? Manderei un pezzo prima, allora sì, prima di rattristarci con la questione palestinese. Io vi manderei un pezzo delle Officine Pan, già mandato a Radio Wombat, ma ve lo ripropongo perché mi piace veramente tanto. E Gianni va veloce. Gianni va veloce, però ci può rincorrere di andare ancora più in su e arriverà in un attimo. E arriverà in un attimo. quasi primavera e i suoi sogni si fanno più veri e tutto sembra assumere un senso nel vento che va, la ruota sembra un'elica. Abbiamo detto che il giro partirà immediatamente prima di questa festività, di questa ricorrenza, e non è l'unica, diciamo, violenza che viene perpetuata sul popolo palestinese, perché appunto sappiamo bene, ma poi ci faremo spiegare anche più nel dettaglio un po' quello che sta succedendo, quello che è successo anche in passato, ma tutto questo, diciamo, che agli israeliani lo vogliono nascondere anche e soprattutto in questa occasione con l'utilizzo dello sport, del ciclismo in particolare, del Giro d'Italia, per ripulire la propria immagine. Infatti tutto questo, diciamo, è trattato in un certo modo da parte dei media, in particolare da un gruppo che è RCS Media Group, una SPA italiana con una partecipazione maggioritaria da parte di Cairo. Poi abbiamo Mediaset della Valle ed altre azioni di minoranza e altri azionisti di minoranza, però diciamo che stanno cercando di rifare un po' la faccia di Israele, diciamo, stanno aiutando Israele a rifarsi una faccia, soprattutto in vista, diciamo, in vista di una proposta del territorio israeliano e palestinese a fini turistici. Quindi proprio una vera e propria operazione di marketing, tanto è vero che ci sono stati stanziati diversi soldi di origine israeliana al gruppo RCS e agli organizzatori. Se Claudio ci puoi spiegare un attimino un pochino meglio come sta andando, come funziona questo finanziamento. Te lo spiego subito, prima mi volevo approfittare di una tua gaffe iniziale, cioè quando mi hai presentato dicendo che rappresentavo RCS. Sì, non vero, è, non, scusa. No, aspetta un attimo, no, mi sta benissimo, perché mi dà l'occasione di parlare di quello che rappresento qui, cioè BDS. BDS sta per boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, che è un'iniziativa di carattere internazionale per il boicottaggio di Israele, sotto diverse forme, sotto forma culturale, sotto forma industriale, sotto forma commerciale. Ecco, e facciamo per questo una serie di iniziative, tra cui anche questa di sabato prossimo, cioè la biciclettata che partirà da Piazza Santissima Annunziata sabato prossimo alle 4, sarà organizzata da BDS Toscana, da Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni della Toscana. E poi ne parleremo ulteriormente. Però adesso, per risponderti su questo compenso che prende RCS Media Group, che per l'appunto che sono i padroni del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport. Qui la cosa è stata veramente brutta, un po' perché inizialmente, a partire dal fatto che decide di far partire il Giro d'Italia da un posto come Israele e in particolare Gerusalemme, dove c'è un conflitto territoriale, è una cosa che di per sé non sta in piedi, perché non ha senso. Se ci dicessero che l'anno prossimo il Giro d'Italia parte dalla Siria, allora saremmo più o meno allo stesso livello. Ecco, questa decisione è stata presa perché alcuni componenti del governo italiano, tanto per non far nome, Lotti, è caro amico di Israele, attraverso la lobby che gira intorno a Renzi, sono amici di Israele, e Israele ci tiene alla partenza del Giro d'Italia da Gerusalemme per propri motivi politici, che spiegheremo dopo. Però voglio incentrarmi ora sul fatto monetario. Questi pagano 16 milioni di euro, 12 milioni agli organizzatori, più a RCS Media Group altri 4 milioni. Questi soldi arrivano attraverso lo Stato di Israele, attraverso un miliardario, ma insomma alla fine è lo Stato di Israele che tira fuori questi soldi, cioè l'ambiente che gira intorno, che finanzia Israele. E quando inizialmente sulla Gazzetta dello Sport era comparso che un'informazione in questo caso corretta, cioè che il giro partiva da Gerusalemme Ovest, c'è stata un'insorgenza da parte dei governanti israeliani, i quali hanno detto: no, qui non esiste una Gerusalemme Ovest e una Gerusalemme Est, esiste una sola Gerusalemme, per dire, la nostra. E quindi guai se gli organizzatori italiani dicono che parte da Gerusalemme Est. Noi non diamo più i 16 milioni. A che i nostri si sono prostrati, dicono: ah, scusate, è un incidente che non avverrà più. E a questo punto lo Stato di Israele, cioè il ministro degli esteri israeliano, ha dichiarato, gli italiani hanno dichiarato che questi incidenti di questo genere non avverranno più. Da allora sulla Gazzetta dello Sport e sugli altri giornali sportivi compare che il Giro d'Italia partirà da Gerusalemme. Ecco, infatti questa grande operazione mediatica serve anche proprio a coprire dei progetti che Israele sta portando avanti sia sul territorio di Gerusalemme, sia anche, sembra che sia interessato alla Valle del Giordano. Sapete darci indicazioni più precise? Sì, io... Ma sulla Valle del Giordano... Radio Wombat, da sempre e obiettivamente la migliore. Bentornati, ci siamo. Allora, signori, eccoci qua, tornati. Avete sentito l'intervista, un piccolo estratto fatta a BDS Italia e a un rappresentante della Habed, un rappresentante della comunità palestinese, un piccolo estratto è stata tagliata anche un po' a merda da me, vi chiedo scusa, ma la trovate per intero su wombat.onoblogs.org alla categoria In punta di pedali nei podcast. Radio Wombat, sapete benissimo che cosa è, sapete benissimo che cosa fa, sapete benissimo anche dove trasmette, ma io ve lo ripeto lo stesso: 13:59 AM, la nostra frequenza. La frequenza liberata da Radio Wombat, non potendo fare altrimenti abbiamo deciso di fare così. Poi abbiamo il blog wombat.blogs.org, abbiamo anche una app per Android che potete facilmente scaricare dal blog. Quindi l'intervista la trovate per intero, molto più dettagliata, la potete ascoltare per benino. Noi vi abbiamo solamente dato un abbocco. La questione è molto seria, addirittura ora un pochino, diciamo, dunque BDS, sentirete poi se vi ascoltate tutto, sentirete che BDS Italia ha organizzato giusto sabato scorso, il 31 di marzo, in occasione del giorno della terra, giorno della terra palestinese, una ricorrenza non così felice, visto che le ricorrenze palestinesi sono molto spesso tinte di sangue, purtroppo. E per il 31 marzo a Firenze è stata organizzata una biciclettata cambia giro, proprio perché boicottare, disinvestire e sanzionare ha deciso di agire così nei confronti di questa manifestazione. Erano già state organizzate in data 10 marzo, se non mi sbaglio, biciclettate un po' in tutta Italia e non solo, anche in tutta Europa. A Firenze purtroppo era successo, c'era la manifestazione per i DDM, c'era, esatto, quindi diciamo ha avuto la precedenza un fatto abbastanza caldo e vicino, purtroppo. Sì, quindi l'hanno fatta sabato. Io non sono riuscito ad andare. Te sei riuscito ad andare? Nemmeno io. Perché ero fuori Firenze. Saremo brontolati dai nostri amici. Sì, saremo brontolati. Siamo bravi a predicare, ma poi pedaliamo male. Ma poi pedaliamo poco. E niente, questo è ancora un esempio di come la bicicletta viene usata per fare greenwashing. Uno dei tanti esempi abbiamo visto anche nella campagna elettorale, no? Sì. Questo uso della bicicletta per giustificare tutto. Assolutamente sì. Io, se volete, ho una piccola chicca da fa regalarvi. Sempre piacere. Ora qualche secondo per ricercarla, ve la cerco e magari vediamo se la potete apprezzare. Già l'ho passata una volta su Fuoco alle Polveri, però ve la ripasso con molto piacere. Allora, lascio il microfono, perché volevo poi anticipare una cosa che tratteremo più tardi, è quella dei riders e delle aziende che fanno delivery, quindi trasporto di beni in città con le biciclette. Anche quello, a nostra opinione, è una tecnica di greenwashing, cioè di ripresentare in chiave pseudo eco-friendly e tutto quanto un'attività che è sempre comunque logistica, e sappiamo in questi mesi e in questi anni che problematiche, che conflitto sociale sta attraversando, sociale e lavorativo e contrattuale, sta attraversando la logistica. Non a caso la bicicletta usata come per vendere la logistica in modo più eco e friendly, poi alla fine si è presentato comunque i nodi al pettine. Vedremo più avanti che alcuni riders si sono organizzati per contrastare il vero e proprio sfruttamento, forse anche più antipatico, che viene fatto dalla logistica a pedali. Vede, il nostro Briccobaldo è ancora in difficoltà, quindi la ricerca sul computer. La ricerca prosegue, ma non a buon fine, dicevo al microfono spento, sappiate che... Spegnendo anche il mio microfono. Spegnendo anche il tuo, sì, io o parlo io oppure... O nessuno, sei molto nessuno, democratico. Sì, la democrazia è il mio forte. Niente, avevo questo contributo veramente appunto della campagna della scorsa campagna elettorale, perché abbiamo visto che qualcuno ha pensato bene di farla in sella a una bicicletta. Però è andata male, Si è stampato. Dice così. Si è stampato. Ti piace usare la bicicletta? Condividi il destino degli utilizzatori quotidiani della bicicletta. Proverò, ve la troverò piano piano, poi ve la proporrò durante questa oretta. Allora, dicevamo, hai accennato ai Riders? Sì, giusto? Ho accennato ai Riders. Bene, sapete tutti benissimo che cosa sono i Riders, li avete visti, o magari anche se non lo sapete, li avete visti sicuramente, perché quelle persone vestite tutte colorate con quegli zaini... Quei lavoratori, sì. Che vanno sempre in bicicletta con quegli zainoni enormi sulle spalle, ce ne sono tantissime oramai, tantissime sono le aziende che le utilizzano. Si può parlare veramente da Just Eat, da Deliveroo, a Foodora, veramente tante diverse aziende, però tutti quasi nelle stesse situazioni di estremo precariato da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista dei diritti sul lavoro. Sono persone che sono lavoratori che lavorano in orari non semplicissimi, in condizioni non semplicissimi, che ci sia la pioggia, che ci sia la neve, che ci sia il ghiaccio, che ci sia il vento, che ci sia 40 gradi, loro sono sempre in sella, stessa paga abbastanza bassa, a cottimo fra l'altro. Quindi ragazzi e ragazze siamo tornati, abbiamo fatto un bel salto indietro, senza malattia, senza ferie. Le aziende cosa dicono? Vabbè, ma tanto, guarda, i rider sono persone che lavorano un po' così, da un lavoretto per arrotondare. Però noi dobbiamo affermare con fermezza che no, non è così. I riders non sono lavoratori saltuari, i riders sono lavoratori esattamente come tutti gli altri. Bene, esatto, e a breve ci sarà questa assemblea dei Riders a Bologna, che è la città che ha visto, diciamo, la prima vera organizzazione dei Riders, cioè i Riders delle varie aziende si sono parlati, si sono auto-organizzati e stanno facendo un po' come i primi sindacati dei tempi, cioè ragionano, parlano e hanno addirittura fatto uno sciopero per far valere i loro diritti. Grandiosi. È vero, sì, iniziano un po' a Bologna, ma anche ho visto in Europa c'è stato addirittura qualcuno che è andato a Bruxelles, alla sede di un'azienda che ora non mi sovviene, a chiedere maggiori diritti per questi lavoratori. Ah, in Italia ancora la situazione non si è mossa veramente, se non a Bologna, dove si sono auto-organizzati, hanno creato una pagina Facebook che potete visitare, Riders Union, dove loro raccontano quello che pensano, quello che gli succede, e dove loro cercano di arrivare all'attenzione delle persone. Non si sono fermati qua, perché, come diceva appunto il mio compare, il 15 di aprile presso la BA a Bologna vi sarà la prima assemblea nazionale dei e delle Riders, quindi domenica 15 aprile alle 10:30, ripeto, alla BA in via in vicolo Bolognetti 2 a Bologna, potrete partecipare. Speriamo anche di potervi noi dare notizie se non potete andare. Noi cercheremo di esserci in qualche modo, magari se non di persona, con qualche supporto digitale, di modo da poter diffondere le loro parole, di poter far sì che altre persone si possano aggiungere, possano fare rete e possano far valere i propri diritti, perché questa cosa qua non è una cosa che si può sopportare, non è una cosa che si può far finta di niente, in quanto tutti noi mangiamo, tutti noi tendenzialmente ordiniamo il cibo attraverso le applicazioni, però bisogna anche essere consapevoli che tutto questo ha delle conseguenze e anche piuttosto pesanti. Eh sì, ma poi piuttosto che farvelo portare a casa, prendete la bici, fate una pedalata e andate a prenderlo voi. Perché sì, schiavizzare qualcun altro? Esatto, oppure vi battete perché affinché quella persona che riporta il cibo sia trattata con i diritti dovuti. Esatto. Comunque, parafrasando un bel libro che in questi giorni è in giro, che si può comprare, non è lavoro e sfruttamento. È un libro di Marta Fana che parla anche dei riders e delle altre tecniche di sfruttamento di questi lavori cosiddetti atipici. Sì, esattamente, esattamente. E quindi loro dicono: fare i rider non è un hobby né uno sport. È per questo che il 1° maggio è anche la nostra festa. Quindi loro vi aspettiamo a Bologna per organizzarla tutti insieme. Questo loro si riferiscono all'assemblea, ma con lo sguardo rivolto al 1° maggio, festa dei lavoratori, lavoratori appunto, anche loro lavoratori. Esatto. Soprattutto se pensiamo alle condizioni in cui si pedala nelle nostre strade, non è sicuramente fare il deliver, fare il rider ad Amsterdam o fare il rider a Copenaghen. Quindi oltre alla pericolosità comunque di un lavoro, c'è in realtà la bicicletta nelle nostre città Assolutamente, è pericolosissimo, veramente pericolosissimo. Fra l'altro l'utilizzo, appunto, il loro lavoro gli arriva dall'informatica, dalle applicazioni. Loro non hanno a che fare veramente con un datore di lavoro, hanno a che fare con un'applicazione che gli dice dove deve andare, dove devono prendere le cose, dove devono portarle. Non hanno un contatto diretto con chi li dirige e soprattutto non hanno un contatto diretto neanche fra di loro, perché di fatto, anche se portano il cibo per la stessa azienda, non sono connessi. Questa è la nuova frontiera. Anzi, della tecnologia è arrivata a questo, a disgregare talmente tanto i lavoratori che da rendere impossibile qualsiasi forma di auto-organizzazione. Sono addirittura in competizione, dovendo seguire l'applicazione. Risponde il primo più vicino al ristorante che emette l'ordine, o appunto, soprattutto ovviamente, al ristorante che emette l'ordine, e quindi cerchi di essere il primo, cerchi di essere quello che si accaparra più ordini. Sì, e anche fra l'altro con organizzazioni un po' dubbie, perché leggevo che a Bologna si lamentano del fatto che non sono organizzati in zone, non è che ognuno un rider ha una zona e si rifà a quella, quindi porta a fare le consegne in quella zona, bensì gli capita di attraversare la città più volte per portare il cibo a qualcuno. Bologna, fra l'altro, quest'inverno è stata molto dura per loro, perché la neve è arrivata in quantità, e naturalmente loro, appunto, come dicevo prima, non hanno alcun indennizzo per le consegne fatte in condizioni climatiche estreme. Non hanno alcun indennizzo, ma sicuramente il pericolo aumenta di gran lunga. Esatto. Poi c'è anche da dire che la manutenzione e la gestione della bicicletta non è a carico dell'azienda, ma bensì ognuno fa, come dire, fa le consegne con la propria bicicletta. Quindi anche lì c'è una disparità, perché se io ho il tipico cancello da città, farò di sicuro molte meno consegne di chi ha una bici da corsa, e soprattutto di chi è abituato ad usare una bici veloce in ambito urbano, perché non è banale, non è semplice utilizzare in città una bici che può fare i 30-40 all'ora. Vero. E quindi vero. Più lento sei, meno ordini fai, meno guadagni. Meno guadagni. Per fortuna, signori, che c'è anche chi pensa a loro e anche chi agisce per loro, insieme a loro. Mi sto riferendo naturalmente ai centri sociali, che sono attivi, a Bologna sono molto attivi. Ce n'è uno in particolare che è diventato un po' un ritrovo per i riders, è un centro sociale che è situato in centro, si chiama Camere d'Aria, che offre una cicloficina aperta un paio di sere a settimana. È un po' diventato il ritrovo dei riders di Bologna. Beh, anche noi abbiamo la nostra cicloficina. Anche noi non scherziamo, signori. La nostra mitica Brugola Rossa, aperta, ricordiamo, colgo l'occasione di ricordarlo, aperta tutti i mercoledì dalle 8 alle 10, perdonatemi. Avremo occasione di parlarne in seguito, non ci lasciate, della Brugola Rossa è un argomento messo all'ordine del giorno, ma intanto io vi lascio con un pezzo. Esatto, vai. La bicicletta dei Radici nel Cemento. Bye.

te, per esempio, che sei sempre in macchina, ti rompi le palle nel traffico, devi guidare, ti stressi tutti i giorni per andare a lavorare. C'è la tecnologia che è pronta a risolverti i problemi, perché come abbiamo ben visto, stanno arrivando le macchine a guida autonoma. Che grandezza. Non è vero? Sì. Arrivano. Arrivano e mantengono la tradizione, tant'è che ad Arizona, cioè a Tucson in Arizona, un'auto a guida autonoma di Uber ha schiacciato un pedone ciclista. Era una signora che stava attraversando la strada, portando, come ci viene sempre rimproverato, attraversate la strada portando la bicicletta a mano. Ecco, stava portando la bicicletta a mano, nonostante ciò è stata arrotata dalla macchina di Uber, che in quel momento era in modalità guida autonoma. C'è da dire che Uber, rispetto ad altre tecnologie, è un po' più indietro, però è successo di nuovo, quindi... Sì, c'è da dire che sta signora stava attraversando in un punto pericolosissimo, allora, anche va detto tutto. Era al buio. Questa tipa qua stava attraversando un vialone, come poteva essere un vialone del metano, un vialone 11 agosto, senza luci, non illuminato, lei attraversava a piedi, spingendo una bicicletta, senza le luci, quindi lei un po' se l'è cercata. Va però anche detto che Uber stava testando questa nuova automobile, e non era ancora pronta. Pare che infatti non fosse una prova, diciamo, a progetto ultimato, era proprio un tentativo. Va anche detto che hanno capito, grazie a questo incidente, hanno capito che le biciclette sono praticamente invisibili ai sensori delle macchine, giusto? Esatto, si muovono troppo ad una velocità non sufficientemente alta né sufficientemente bassa per essere rintracciati dai sensori. E diciamo che il problema delle auto a guida autonoma è che innanzitutto generano un falso senso di sicurezza sulla strada, e o sono tutte macchine a guida autonoma, oppure non si può avere solo una parte di auto a guida autonoma, perché appunto è imprevedibile ciò che può succedere sulla strada, immaginiamo con altre guide umane, no? Però l'altra conseguenza, anche un po' più come dire, sul futuro, è come si reagirà a questo evento. Se si inizierà a pensare che i pedoni devono ancora essere di più, i pedoni e comunque gli utenti deboli in genere, come anche i ciclisti, debbono essere ancora di più confinati in zone, una sorta di riserve indiane, che sono le ciclabili, i marciapiedi, devono essere confinati appunto in quegli spazi lì, e tutto il resto della strada deve essere solo esclusivo utilizzo dei mezzi a motore, questo non è una soluzione, non va bene, perché si snatura l'idea di strada. La strada è nata nei secoli, è sempre stata uno spazio sociale, uno spazio politico, dove si discuteva, dove si interagiva, si faceva socialità, e adesso appunto è tutto trasformato in un circuito di velocità, praticamente. La differenza, ad esempio, che mi viene lampante agli occhi è quanto si possa in bicicletta, ad esempio, chiacchierare con altri pendolari che come te fanno lo stesso percorso, fanno la stessa ciclabile, magari fermi a un semaforo, si fa una piccola massa, 5-6 persone, parte una battuta, parte uno scherzo e si fa socialità, si condividono punti di vista, poi magari sono persone che rincontri sulla stessa ciclabile fra 2-3 giorni, magari hai la gomma a terra e l'altro ti dà una mano. Sì, allora è vero, no, ma questo sui ciclisti si può comunque parlare benissimo. Intanto io vi volevo, tornando un attimo a Uber, dice che Uber ha intenzione di sospenderlo questo progetto, per poi ripassare alla questione delle macchine, dell'utilizzo delle strade. C'è un interessante articolo di Alessandro Micozzi del 3 febbraio 2015 che è stato pubblicato su Bike Italia, che parla proprio di questo. Si intitola "Come l'industria automobilistica ha criminalizzato pedoni e ciclisti", e fa un po' la storia di come veramente l'industria dell'automobile abbia, a partire dai primi anni del Novecento in America, abbia veramente criminalizzato il pedone, sia da un punto di vista normativo, perché a un certo punto nel grande mondo delle strade sono comparse le strisce pedonali, che diceva: che so queste cose, le persone erano abituate a attraversare a una strada, a vivere io in strada, esatto, cioè, quindi io non sulla è che... strada ci cammino, punto. Quindi a un certo punto dice: bene, sulle strade non ci si può più vivere, le dovete attraversare, ma solamente in alcuni punti precisi. Addirittura, siccome le prime strisce sono nate in America, chi non attraversava sulle strisce gli veniva dato un nome ben preciso: Jay Walker. Che vuol dire? Attraversatore selvaggio, camminatore selvaggio, che... no, però il suono è abbastanza simpatico. Il suono è simpatico, sì, però... Jaywalker però era inteso in modo dispregiativo, quindi loro cercavano anche proprio culturalmente di far passare che le strade, basta, erano per le automobili. Anche nelle scuole addirittura vi erano tutta una serie di progetti portati avanti dalle aziende, dalle grandi aziende, per far sì che fin da piccoli i bambini si sentissero in difetto se utilizzavano la strada in un certo modo, cioè standoci, cioè come punto di scambio, come luogo di scambio, come luogo di commercio, luogo di tutto, ecco, di vita, criminalizzati. No, bene, le strade sono per le macchine, questo ha aperto la strada alla grande industria automobilistica, e poi sappiamo bene che dove ci ha portato. Ci ha portato a questo, ci ha portato alla fine, nei tempi più recenti, a ideare le macchine a guida automatica. Mi fai ricordare una citazione di un grande viaggiatore in bicicletta, Didier Tronchet, è un francese, che affermava, guardando il numero di morti all'anno sulle strade francesi, diceva che l'automobile è diventato il primo predatore dell'uomo. Se ci pensate, noi nei film, nella cultura di massa, c'è sempre paura del predatore che preda l'uomo, può essere il lupo, può essere lo squalo. In realtà, ai bambini, più che parlare del lupo cattivo, bisognerebbe parlare dell'automobile cattiva, perché andiamo sui 10.000 morti all'anno per la bicicletta. Non sono pochi. La riflessione che faceva Didier Tranchet è che non c'è nessuna specie animale nella storia. Dal momento, diciamo, nell'evoluzione, nella storia, nessuna specie ha mai creato il suo stesso predatore con tanto entusiasmo. Se ora questo predatore, che già lo guidavamo noi e facevamo da anni, gli diamo anche un'intelligenza artificiale che in realtà può essere fallace, come abbiamo visto, basta non ci sia la luce sufficiente a far scattare la soglia di visibilità per una telecamera, e l'utente della strada non viene visto e viene arruotato. Eh sì, signori, io sapete che penso di aver trovato quel contributo che... signori che e signore, dovete sapere che tutta la puntata è stata pensata, sì, esatto, per dare il tempo a compare Bricco Baldo di trovare... È girato tutto intorno a questa cosa qua. Esatto. Perché ci fa piacere questo suono, diciamo. Sì. Questo, non lo so, o preferite prima un pezzaccio? Ah, io un pezzaccio... anche per spezzare i nostri sproloqui. Dai, poi parliamo anche del contributo, anzi ascoltiamo il contributo, e questo ci darà modo di parlare anche di tutta una serie di cose. Io, quindi, se avete, insomma, vi lascio ai Tre Allegri, Ragazzi Morti. Sei da troppo in piedi, dietro un banco. sta così bella e così comica. Ed eccoci tornati su Radio Wombat in punta di pedale. Caro compare Bicco Baldo, caro compare, intanto erano i tre allegri ragazzi morti, il principe in bicicletta. Sempre simpatico il principe. Sì, giù promettiamo anche, prometto che non manderemo così tante canzoni a tema, bicicletta. Perché intanto perché poi si scassa la minchia, ma soprattutto perché a un certo punto finiscono, quindi se vogliamo continuare. Ma abbiamo già esaurite la metà. Le abbiamo già praticamente esaurite, quindi. va bene, dai, però per oggi è così, d'altronde è la prima puntata e allora ci siamo lasciati un po' andare. Puntata di rodaggio, volendo. Puntata di rodaggio, sì, sapete, automobilisti. Vero. Allora, il contributo, lo vogliamo sentire? Subito, dai, non vedo l'ora. Ma voi lo sapete chi è un uomo dei nostri tempi, un uomo che tutti conosciamo, un uomo che tutti continuamente ci troviamo a parlare di lui, a commentarlo, a commentare quello che dice, quello che fa. Si chiama Silvio. No, ti sbagli, caro. Ti sbagli di grosso. Perché... Non è bassino scuro con le orecchie. No. Con le orecchie grandi. Guarda, sai che era fuorello, ci si andava vicino. Però non era Silvio. Gli assomiglia in un certo senso, si può dire. È abbronzato. Lo è stato in alcune occasioni particolari. Quando c'era da fare una propaganda particolarmente spinta, quando c'era veramente da sulle prime pagine tutti i giornali, sulle telecamere di tutte le televisioni, si abbronzava, si doveva rimettere in forma, e comunque a parte rimettersi in forma, un'altra buona parte della sua propaganda l'ha fatta in bicicletta, o almeno l'ha fatta fino a che non si è stampato, caduto rovinosamente dalla sua bicicletta. Proprio di recente, proprio guarda, ti dico. Casualmente erano lì i microfoni di Radio Wombat e hanno registrato l'evento. Allora, intanto ve lo faccio sentire, poi ne parliamo un attimino. Comunque io il PD non lo voto. Sicuro, sicuro? Certo che sono sicuro. Pensaci, dai. Aia. Non fermiamoci proprio adesso. Arrotiamoli. Non fermiamoci adesso, signori. Dai, forza. Dai, non è abbastanza. Non è molto amichevole verso noi ciclisti urbani. Questo è vero. Però bisogna anche dire una cosa: che lui non è un ciclista urbano. Lui è uno che prende la bicicletta esclusivamente per fare propaganda. Sì. Dice che l'hanno beccato una volta. L'hanno beccato con l'autovelox. Con davvero? Subone. Sì, sì. Pensa te. A parte che dice che la consorte entra in centro col subone. Davvero? Sì, sì. La donna Agnese. Donna Agnese a. Al SUV registrato e può entrare bucando le telecamere. Pensa te, vabbè, ciao. Gli amici degli amici. Va bene. Una bella canzone, Amici degli amici. Questo ci dà occasione perché per parlare di alcune cose. Vabbè, intanto abbiamo visto, insomma, Matteo Renzio. Ora, questa era l'ultima occasione, l'ultimo sua comparsa sulla due ruote. Però era ben abituato già da tempo, già da quando era sindaco a Firenze. Lui, insomma, si è fatto vedere spesso, anche come Nardella, di fatto, con tutta questa faccenda dei mobike, le scampanellate, insomma. Sempre la stessa mentalità, no? Di, vabbè, ragazzi, cioè. Di darsi un'immagine eco e friendly e poi fare più, nei fatti le cose diametralmente opposte. Sì, infatti, diametralmente opposte, come ad esempio l'amministrazione comunale si è trovata a fare giusto adesso, visto la mozione firmata per lo sgombero del CPA. Dove c'è la nostra brugola rossa. Che ci riguarda molto da vicino, perché al CPA, presso il CPA, c'è la cicloofficina brugola rossa. È lì, è già un punto importante per noi ciclisti urbani, perché possiamo andare a riparare la nostra bici con le nostre mani, imparando da noi con le nostre forze. Ovviamente c'è sempre qualcuno che ne sa di più e possiamo imparare a riparare la nostra bicicletta. L'idea è quella di condividere anche lì, condividere il sapere, quindi c'è qualcuno che magari sa qualcosina in più di noi e la condivide ben volentieri, rendendo i nostri mezzi efficaci. Assolutamente sì, la troviamo aperta, se non erro, il mercoledì dalle 8 in poi, giusto? Ah, sì, sì, dalle 8 in poi alle 10, scusate, mi ero distratto. Dalle 8 in poi alle 10, ci piace. Dalle 8 alle 10. Appunto, sta affrontando un momento di, diciamo... assedio. Di assedio, sì, anche se poi vedremo un po' come andrà a finire. Però è stato minacciato duramente dall'amministrazione, lo vogliono sgomberare, c'è stata questa mozione che è stata approvata in comune da tutti, escluso poche persone, comunque il Movimento 5 Stelle, il PD, Forza Italia e Fratelli d'Italia l'hanno votata e è stata proposta dalla destra, la Forza Italia e Fratelli d'Italia. Comunque il PD, figurati se si fa mancare, se si fa sfuggire un'occasione come questa, e quindi sì, dai, sgomberiamolo. Hanno firmato la mozione, l'hanno approvata, poi hanno un po' nicchiato comprendendo le difficoltà che ci sono, che ci sarebbero nell'eventuale sgombero. Il CPA ha reagito con fermezza dicendo naturalmente che da lì non si muovono, così anche la Brugola Rossa. Hanno fatto un'assemblea, insomma è stata molto discussa. Dopo qualche giorno dalla notizia, dall'approvazione della mozione, comunque Nardella ha detto sì, va bene, effettivamente è un po' problematico, bisogna pensarci bene, collaboreremo insomma con le forze dell'ordine, con le autorità. Quindi questa è la loro intenzione, ma non è una bella cosa quella che sta succedendo a no, Firenze. Considerando la questione è questa, che questa città sta diventando sempre più una vetrina glamour che può essere goduta solo se si ha un certo ceto sociale, se è possibile permettersi gli svaghi sempre più cari che ci sono in questa città. Il CPA, come anche altri posti, invece ti permette di vivere una socialità senza la logica del profitto, senza l'obbligo di spendere 7 euro per una bevuta e una chiacchierata con gli amici, e soprattutto apre gli spazi a tante iniziative che magari non hanno un rientro economico e quindi non sarebbero mai ospitate in altri ambienti, ma appunto al CPA riescono a trovare spazio, come può essere la palestra popolare, il teatro, il cinema, appunto la Brugola Rossa. Chi ospiterebbe un'officina dove le biciclette non si riparano né a gratis né a pagamento, ma le riparano gli stessi utilizzatori? Nessuno. E per quel quartiere il CPA, per quel quartiere e per la città, il CPA è una risorsa che, diciamo, non rende semplicemente un quartiere dormitorio quella zona lì. Assolutamente sì, è una risorsa da quasi 30 anni il CPA, e noi non ci stancheremo mai di offrire la nostra solidarietà e il nostro aiuto, il nostro supporto per far sì che un posto del genere non scompaia mai, mai e poi mai. Quindi sarà... Cosa devo dire? Fra l'altro vi è stata la festa, una festa della Officina Popolare? Sì, c'è stata la festa della Palestra Popolare e, due sabati fa. Mentre l'ultima Critical Mass fiorentina, quella del 29 marzo, la prima di primavera, è finita al CPA con una cena sociale, anche quella massa. E io c'ero e vi devo dire che era davvero una bella massa, molto partecipata, eravamo circa più di 100 persone di sicuro, e fino alla fine ci siamo... goduti le strade, ci siamo riappropriati della strada e speriamo che alla prossima massa, che sarà quella di aprile, saremo ancora di più. Sì, speriamo di essere ancora di più, e speriamo anche che in Punta dei Pedali possa portare dei nuovi ciclisti alla Critical Mass. Fra l'altro, Critical Mass che sta per Critical Mass versione interplanetaria, che sta per approdare sulle strade fiorentine. Perché? Dai, dicelo, dicelo, dicelo. Oh. Allora, perché a maggio arriverà a Firenze la CMONA, quindi la massa delle masse. Abbiamo più o meno idea di dalle masse dalle CMONE. In realtà la CMONA nasce a Roma come la festa della Critical Mass romana, e poi si è trasformato in un evento internazionale, per cui arrivano persone dalla Spagna, dall'Austria, dalla Germania, dalla Francia, e ci sono, è davvero una gran bella massa, sono tre giorni di festa uno dietro l'altro. Quest'anno sarà a Firenze il 18, il 19 e il 20 maggio. Possiamo dire il programma, anticipare un po' il programma? Il programma lo possiamo... Sì, no, non credo sia segreto. Sta per essere pubblicato proprio in queste ore. Spoileriamo tutto. Spoileriamo. Dai, sì. Allora il primo intanto... giorno... Sparo subito. No, stavi dicendo qualcosa? Sì, no, intanto volevo riportare ancora l'attenzione. Sentirete il programma della Critical Mass... da notare che Critical Mass e spazi sociali sono strettissimamente collegati, perché dai dici il programma. Allora, Critical Mass ha avuto, la CMONA sarà il venerdì 18 con una massa aperitivo per iniziare, cioè la solita massa di fine mese sarà il 18 venerdì, e ci sarà una prima pedalata, diciamo, dal solito orario, dalle 19:30. Il sabato invece ci sarà la vera e propria CMONA, che partirà nel primissimo pomeriggio e durerà fino a sera, quindi con speriamo tanti partecipanti e con un lungo percorso in giro per tutta la città, perché saremo in giro un bel po' di ore. E si concluderà? E si concluderà al CPA, casualmente, con una bella festa, un concerto e una cena. E poi invece il giorno dopo, se non siete ancora stanchi, e non dovrete esserlo, il giorno dopo ci sarà la scampagnata, quindi la CMONA esce dalla città e va a fare un bel picnic. Questa volta il picnic sarà sulle colline fiorentine, e lasciamo nel dubbio esattamente il posto, però sarà sulle colline. Ecco, sì, è uno spazio sociale, si può dire anche questo. Non vi preoccupate, quando si parla di colline fiorentine si può anche dire in questo caso che non c'è tutta questa salita da fare, c'è solo l'ultimo pezzettino, c'è l'ultimo chilometro, dai, ma uno sì, l'ultimo chilometro ma lo può sono spingere, pochi ragazzi. Metri, dai, sì, si fa. Poi è tutta tranquilla, quindi non abbiate paura. Non abbiate paura, anche perché io sto per mandarvi un pezzo. Che ne dici? Ma ci sta benissimo. Questa volta, ragazzi, niente vicino. Sentiamo che pezzo è messo. Dai, Gogol Bordello. Uncles from abroad. Yes, I never met them. I took everything they wrote, and I'll never forget them. Through the mystical communication, deep within it all comes through, forming underground railroad for our ultimate breakthrough. Nephews from abroad, I'll never meet them. Ooh, they'll take everything I wrote, and I'll never forget them. Through the mystical communication, deep within it all comes through, forming underground railroad for our ultimate breakthrough. I'm and we will drink to how we never told you. Don't trust a plastic bean. Through the mystical communication, deep within it all comes true. Forming underground railroad far around the my breakthrough. Anche le foche bevono Radio Wombat. Bentornati, eccoci qua. Stavo salutando le amiche foche. Ragazzi, se anche le foche bevono Radio Wombat, perché voi non dovreste bevere Radio Wombat? Compare Bricobaldo. Allora, abbiamo altro da dire? Siamo in chiusura. Io una cosa la voglio ricordare. Chi è Radio Wombat? Cos'è Radio Wombat? Perché ascoltare Radio Wombat? Radio Wombat è un laboratorio, come benissimo avete intuito, visto che sono un laboratorio, si può permettere di sculare così la prima puntata. Bene, allora noi siamo una radio che è nata giovane. Questo lo dico per chi non è ancora ascoltatore, che magari si trova per la prima volta ad ascoltarci. Siamo una radio nata circa un anno e mezzo fa a Firenze, autogestita, autocostruita e autofinanziata. Questo ci rende liberi da qualsiasi briglia. Possiamo dire e diciamo tendenzialmente quello che riteniamo giusto senza dover per forza stare dietro a logiche commerciali che sono obbligate se si vuole far radio, perché le frequenze sono veramente molto costose, molto molto costose, inarrivabili a chiunque se non censura per ceto, se non i soldi non parli. Se non hai dietro un gran finanziatore per te, caro, è veramente un bel problema. Come si fa ad ovviare a questo problema? Si studia, signori, si fa un laboratorio come il nostro è un laboratorio che si è messo in testa di voler far la radio a tutti i costi. A tutti i costi, a bassi costi economici, ma lo sforzo, l'impegno è tanto per far sì che anche Firenze abbia qualcosa di valido che comunichi alle persone quello che succede in città, senza che ci sia appunto nessuno che possa dire quello che vogliamo dire. Poi forse, sai che forse anche un'altra cosa la volevo dire, ma non me la ricordo. La chiacchierata la faccio volentieri, eh? Continua, continua, ti aspetto. No, sei già dimenticato. Va bene, quindi questa è Radio Wombat, ci trovate sullo streaming, ci trovate anche sulle onde AM. Le onde AM sono delle frequenze che sono state un po' dimenticate fino a poco fa, quando sono nuovamente state regolamentate, però anch'esse di nuovo si torna lì, sono state regolamentate con un bando fatto ad hoc per aziende, fondamentalmente per persone che ci lucrano. E quindi non è stato nessuno, a nessuno è venuto in mente di lasciare uno spazio per le persone comuni, le persone normali, le persone interessate. E allora noi questo spazio, questa frequenza l'abbiamo dovuta prendere, l'abbiamo dovuta liberare con molto piacere anche, però insomma, dai, è un bel impegno. Quindi stanno nascendo altri laboratori simili per agire per l'Italia. Proprio a Genova sta nascendo un esperimento del genere, ma anche in altre città. Speriamo di riuscire a essere tanti fra poco, tutti sulle frequenze 1359. Sarà la frequenza liberata più o meno per tutta Italia, si spera. Quindi questo ci porta anche a riscoprire le onde AM, perché sono un terreno abbastanza atipico. Si può sentire... Lunga propagazione, sì, sono le onde medie, però arrivano veramente lontano, tant'è vero che se voi andate a fare un po' di radioascolto sulle frequenze AM troverete veramente di tutto, e anche il Wombat per ora lo trovate in uno spazio piuttosto limitato, ma confidiamo in futuro di arrivare anche noi lontani. Bene. Signori, l'ultima cosa voglio dirvi riguardo alla Critical Mass: sicuramente non sappiamo bene ancora in che forma, ma se purtroppo per voi non potrete esserci, avrete l'occasione di ascoltare una diretta della Critical Mass il sabato, così l'avevamo pensata. Se poi non riusciremo a farlo, potrete riascoltare sicuramente contributi sui vari programmi, ma in particolare su In Punta di Pedale. Allora, dai, ricordiamo quando è la prossima massa, no? Ricordiamo la prossima massa, che secondo me è importante da dire. La prossima massa sarà il 26 aprile, giovedì, e ci sarà, speriamo, un bel tempo, e quindi vi aspettiamo intanto in 200, in 300, in 400 a pedalare, e poi vediamo dove arriviamo, dove finiamo. Vero, vero, vero. Detto questo, signore e signori, noi vi lasciamo. Vuoi la rivoluzione? E allora pedala. E allora pedala. Purtroppo si pedala. Sì, diciamo, si pedalate. Non ho colto l'assist del mio compare, perché non ho questa canzone pronta, non l'ho trovata. Vi lascio. Va bene, chiacchiera un altro po' che lasciamo. Mi lasci proprio il cerino in mano. Ti lascio col cerino in mano, io intanto la cerco. Stai cercando la... allora bla bla bla. innanzitutto stavo pensando che la... Raccontaci l'asta del CPA, io voglio sapere come è andata l'asta. L'asta è andata benino, praticamente l'idea qual è stata? La ciclofficina popolare realizza delle biciclette, appunto recuperandole, delle biciclette ad un prezzo popolare, che poi sono state messe in asta, ovviamente partendo da prezzi popolari e rimanendo su prezzi popolari, appunto perché aveva bisogno di una bicicletta. Spesso vediamo per strada delle biciclette abbandonate, delle biciclette che ormai la città concepisce soltanto come rottami. Non so se ricordate gli articoli in cui le rastrelliere erano qualcosa che deturpavano la bellezza di Firenze. Bene, la ciclofficina ha recuperato queste biciclette, gli ha dato nuova vita, perché la cosa bellissima della bicicletta è che appunto